quando? Che roba? E che vuoi che sia? E su questo? Non me ne parlare, ero dello spin a fare la spesa, proprio col piccolo il calore, sì un po' di clima, ma era bollente, il sedile era bollente, quindi c'ho la baglietta, sì la baglietta, la maglietta intrisa, non puoi capire, adesso mangio e poi doccia e poi si vedrà, TV? Su, a mare non c'è l'altro. No, non ne ho più voglia già, sono rotto le balle. A me al mare piace andare sotto i 30 gradi, cioè prima mia, giugno, che insomma, maggio, giugno, insomma, poi comincia a scaldare troppo, forse a settembre si può andare, se la temperatura scende. E io comincio ad andare a settembre, dai. C'è poca gente, si può pescare anche di giorno e ti cerchi un posto un po' isolato e posso mettere anche le canne a mare. Eia. Tutto uguali le giornate, tutto uguali, che poi io non amo uscire con le ore calde, però mi serviva qualcosa. Poi a fine serata me ne basta la gana di guidare, capito? E vabbè, soprattutto l'acqua, guai se manca l'acqua frizzante, l'acqua da bere. No, io frizzante non è vero, bevo naturale. Ma è molto buona quella di Ruspin, l'acqua, l'ho bevuta a casa di amici che eravamo a pranzo lì. Quella blues un po' gasata rimane, ma è buona veramente, perché è leggermente gasata, non è troppo gasata. Sì, poi da seconda di dove vai c'è frizzante e anche leggermente frizzante, però quella leggermente frizzante sembra già sgasata, quindi un po' così, dai. E bamba, va. Ho capito. Va bene, dai. Questa mattina mi sono fatto 2 ore di fila, che mamma mia, 2 ore, dalle 8 alle 10, 2 ore di fila, sì. E per cosa? All'Inps. All'Inps, ho capito. Ma non è roba che si può fare online, no? No. Devo fare una visita. Praticamente io pensavo che ci fosse una fila come sempre, no? E quindi io ci sono andato dalle 8, ho detto se no non trovo parcheggio, poi tutto quanto, ecco, preferisco aspettare, però se trovo il parcheggio piuttosto che perdermi la visita. Ho messo la macchina dentro, sono arrivato tutto deserto, ma toccate non venisci. Poi sono arrivati altri due, c'è anche la Charlie in appuntamento. E ho detto, non lo so, è uscita la guardia giurata, aperto. Ho detto, come sono i vostri nomi? Hanno altri nomi. Lei però dice c'è alle 10 l'appuntamento. Come alle 10? A me non me l'ha detto nulla. Vabbè, comunque ci c'era le 10, se vuole entrare la facciamo entrare, perché vedo che non ce la fa stare in piedi e niente, e mi ha fatto entrare dentro a sedere. E con queste visite, boh. A me me la fanno, ogni 3 anni me la fanno. Ma poi per visita normali c'è gente che è dovuta andare a Cagliari, Oristano, Nuoro, roba. E perché a Sassari cosa fanno? Si grattano. Cioè cosa fanno dove prima facevano le analisi? E poi non ci credo che uno da Oristano lo mandino a Sassari, da Cagliari a Sassari, da Nuoro a Sassari, non vi credo. Che giro strano c'è di roba. Boh, vabbè. Sì, conosco gente che è andata a Nuoro a fare gli esami. Anche ecografie e roba così, perché qua è tutto pieno. E a volte non ce n'è, allora io devo fare un'ecografia e vi detto che non ce l'ha posta in tutta la Sardegna. Mi ci devo aspettare e poi non l'ho più fatto. Perché mi sono rotto talmente le scatole che non ne ho più fatto. Va bene. Oggi mangio prima e non voglio stare a... Come sempre, porca miseria, che palle di sole. Non roba fresca, io sto mangiando insalate, mozzarella, roba fresca, se no proprio non me la sento di mangiare roba calda. Solo l'altra sera ho mangiato riso alla pescatora, perché me l'ho fatto, mi ho comprato un po' di frutti di mare e me l'ho fatto e già mi è piaciuto, là. Però poi non ho mangiato altro. Frutta, sì, frutta fresca, buona, buona. Certe volte a cena mi mangio frutta fresca, boh, melone, anguria, quello che c'è, pesca al limite, ma pesche le ho buttate già due o tre volte, perché io ne mangio poche, mamma non ne mangia, cioè me le fa comprare e non ne mangia. Basta comprarne due o tre e basta, è il tanto che ti mangi due, basta, per toglierti più lo schizzo, se no ce le butti via. No, io con la frutta lì la compro contata, perché deve finire subito, se no si guasta. Magari se prendo arancia, mele, questa roba qua, sì, la prendo in quantità. Ma quella così, tipo susina, albicocche, tutte queste cose qua, ne prendo, per dire, mezzo chilo di una, mezzo chilo dell'altro. Sì, albicocche anche buone. Basta che siano un po' fresche, infatti le teniamo in frigo, così sembra gelato, dai, tra virgolette. No, a me mi piacciono un po' morbide, non mi piacciono dure, quindi io me ne compro poche, le mangio tutte in fretta per non guastarsi, però me le mangio con gusto, perché sono più dolci quando sono un po' morbide. Oppure mi faccio il frappè con il latte, mi faccio il frullato di frutta, ci metto banane, tutto quanto, ed è un bel buono. Oppure lo faccio con lo yogurt. Non è male anche quello, molto molto buono. Queste sono le cose che ti tengono fresco. Sono tipo le banane, c'è a posto. Oh, le banane? A chi è che piacciono le banane? A te, un sciabucco, ciao. Ebbene Antonè, non ti sentivo da un secolo, tutto bene, come sta Simona? Sì, non sta bene, la verità. C'è il caldo, sta crepando, quindi sono sempre a casa, capito? Sono qui purtroppo ed è un casino, a uscire qualche volta, a fare la spesa, è a 35 gradi, come stamattina, e poi rientro a casa immediatamente. Facciamo con te per dire, se vado a bere un bicchiere di birra al bar, tac, mi telefona lì, dove sei? Magari perché non sta bene, ciao Antonio. Ciao Gianni, saluto di ben sentito. Non sta bene per quello, magari, non si preoccupa perché sola. Sì, infatti è tutto per quello. Ti ho più visto a Marco, pensavo che fosse esiliato in Libia. Ma chi Marco? Marco Condo? Marco Conno, Marco Conno, non ho più visto. Ehi Antonello, guarda, io mi accaldo anche a parlare, capito? Soprattutto se c'hai un argomento di cui parlare, quando sai botta risposta, botta risposta. E poi qua batte il sole, Antonio, ricordati che qua batte tutto il sole, proprio verso il salone. Invece la camera mia è ancora più fresca. E secondo te la camera dove sono io cosa batte? Il labirinto. C'è il sole a quest'ora io. Mi manca solamente a me la mattina, dalle 7 fino alle 2. Alle 2 poi c'è il sole da questa parte, dove sono adesso io. Nella cameretta di Alessia. Ah, poi lì, a parte che voi siete sotto tetto, no? Quindi lì è sempre più calda comunque. Antonio, non è che puoi aumentare un po' la modulazione, appena appena. Sto usando l'857D, la meglio adesso, guarda un po', come vedete. Meglio, meglio. Ah, non l'hai venduto ancora, Antonio? No, ancora non l'ho venduto. Mi avevano 4,50, ho detto no, io 4,50 non lo do. Ho detto se 500 va bene, io ho detto, in contanti ce l'ho altri, se no pazienza, ti rimane qua. Sì, perché quello da nuovo era 8, cioè tra, cioè nuovo nuovo, no? Con garanzia, negozio, spedizione assicurata, era venuto un botto quello, quello costa un botto, insomma, non so se lo vendano tuttora, perché l'857D è, sì, ha tutte le bande ma un po' obsoleto, adesso hanno fatto il nuovo HF, che è il DSP vero, DSP vero nel cuore dell'apparato, non quella col finto DSP che agisce solo sul, quasi sui toni dell'altoparlante, capito? Però è solo HF, cioè hanno fatto HF forse 50 mega, non mi ricordo bene, e gli hanno tolto praticamente la V e la U, e poi hanno fatto il B-band dalla stessa serie col display azzurro V e U. Però l'857 è il bello che va tutto HF, VHF bassa, VHF normale, UHF, è un bello apparecchietto, però poi tutti i soldi buttati. Vai Gianni, oh, io mi devo lasciare, però dai, devo mangiare, poi devo fare la doccia, tante cose, dai. Riprendi Gianni e sentiamo, ciao a tutti, ciao, un bacione. Ciao Marco, ci sentiamo, là. Se vuoi venga la pattina spalle. Ai caro. Vai. Alessio, io avanti. E magari la delle spalle con la spugna, quella della cucina, che si usa per lavare i piatti. E poi la sto tirando bene. Ma comunque questo apparato qua stanno vendendo su AliExpress, c'è ancora, viene 1200 euro nuovo, quindi figurati tu. 520 stanno vendendo a seconda mano, l'ho visto l'altro giorno io. Quindi Charles è l'unico apparato HF che sta venendo a quel prezzo lì, l'unico, che se li vale. Però io ti sento cupo, Antonio, non ti sento chiaro, ti sento un po' cupo, non lo so Marco come ti sentiva, però un po' cupo la modulazione. Adesso te lo schiarista, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso va benissimo, e cosa è? C'è un pulsante dietro al microfono che fa toni alti e toni bassi. No, così è perfetto, l'altro te la rende la, forse per la tua voce si adegua di più questo tipo di modulazione, dai. Ah, vabbè, comunque già va. Già sta facendo bene questa parete qui. Ciao comunque Marco, buona doccia, buon tutto. Ci sentiamo alle prossime, stai bene, buon tutto. E quindi Ali, cosa mi racconti? Niente, battagliando più che altro, tutti i giorni battagliando, non c'è neanche tempo di fare nulla, figurati, mi alzo alle 7:30 del mattino, mi sveglio, devo dare le pastiglie, devo dare di quello, devo portare di quell'altro, eccetera eccetera, peggio di Giampiero, so. L'infermiere sta facendo, dai. Esatto, sta facendo l'infermiere, esatto. Lo so. Purtroppo la vita è così, riserva anche di queste cose. E non si sta alzando niente. Già si alza, già, non è quello il problema. Alzati già si alza. Però si sente debole, non lo so, mi sto comprando anche tutti i soldi medici, sto spendendo, cazzo. Le bustine per i muscoli, poi l'altro per il corpo, per la vitamina eccetera eccetera, poi l'Exotan, tutte le medicine sue, dove bastano 100 euro e passa euro al mese. Però, ma scaricateli quelle, se non te le puoi scaricare. Non le posso scaricare, con 20 di cittadinanza non puoi scaricare nulla. Ah, buonanotte. Io già le scarico, ma qui ci vado sempre di sotto perché me ne prendo sempre su di più, dicono che me li hanno dati in più e me li tolgono di nuovo, via. Se non te li possono dare, non te li devo dare dall'inizio, non puoi metterti in fondo. Ma è così, non conviene scaricare nulla ormai, c'è poco da scaricare lì, il cos'è quello lì. Se avessi avuto un'altra cosa diversa sarebbe stato di una cosa così, tutto per dentro di cittadinanza è quello di ti sei bloccato, capito? Fosse stata un'altra cosa, sarebbe stato bello, invece no, devi essere lì, Dopo, il puritano solamente 140 euro al mese, il primo di ogni mese, e poi tutto il resto devi spendere solamente in cosa, non puoi comprare, cioè, non puoi prendere roba in contanti, solamente così. Se ti devi fare un pagamento devi pagarlo, ti devi incatenare la vita, il discorso è quello. Allì, un attimino che sono al telefono. Va bene, ok, non c'è problema. Flessi. Dimmi tutto. Dimmi. E io ho finito là. È la roba veloce. Hai fatto col comodo? Comodissimo, comodissimo. Bello sdraiato. Ah, meglio così, sono contento. Cappa cappa. Arriva il caldo, mamma mia. Uff. Speriamo che finisca questo tempo così caldo, perché è insopportabile, tutto appiccicoso. Vai, ti fa la luce, poi ci dà la luce, ti rinfresca, al momento poi di nuovo, a punta a capo. Io già lo so, dillo a me. Ho fatto un paio di... cioè un paio, quattro fuori col trattano a Giovanna, in una cameretta poco fa. Mi sono fatto la luce, lo peggio di adesso. Yeah. Lo so, è il tempo. Infatti è bello uscire la sera tardi, via adesso, prendere un po' d'aria verso zone di mare. Zone di mare, magari, per esempio così facile con me. Magari a quest'ora sei stato già al mare, non ti preoccupare. Il prossimo anno, se tutto va bene, se c'ho la macchinetta 50, me ne vado direttamente al mare io. Mi prendo la casa, tanto non c'è il Covid 19, il prossimo anno spero almeno sono tranquillo, mi faccio tutto giugno e luglio, a 500 euro al mese, non a settimana, ma come quest'anno, tutti quanti i poveri già possono uscire quest'anno. 500 euro al mese lo bisogna dire a te, anche a Plantamura le affittano 1000 euro, 1500, all'alghero non se ne parla. 4-5 anni fa stavamo affittando 500 euro al mese, perché stavo cercando casa io, la verità. E quindi... ti parlo, non 4-5 anni fa, di più di 5 anni fa, forse sarà una decina, una cosa del genere. A posto di trovare, c'è tutto di cosa, dovevo trovarmela per dire alla fine della Budi era in pratica, vicino dove c'era Benito, lì c'era una villetta, ne volevano 350 euro al mese, ne volevano fino a settembre. Poi ho detto, ma ce la faccio, ma faccio risultato. Però c'erano, quindi adesso sono un pochettino allargati, il cosa è quello. 500 euro a settimana non esiste, cosa siamo? Alla Maddalena siamo, non va bene, capito? Se qualcuno c'ha soldi è bene, se no se la tengono la casa, se la attaccano a pupa, se la attaccano. Hai capito? Adesso mi hanno presentato quest'anno più che altro per la questione di questo Covid-19, che se dovesse sparire, sai come scendono i prezzi? E come i baracchini scendono a me? Se trovavi un baracchino stato un eco 700 euro, quando lo trovavi 150 come le cose 19, hai capito? Speculazioni e basta, no? solo quello. Certo, non è che adesso è salito di brutto, 250, 300 lo stanno dando, anche 350. E vabbè, ma è solo un prezzo esagerato, secondo me 200 euro è il prezzo suo originale. 150 magari c'ha qualche cosa, per 200 euro lo prendi, dovrebbe essere senza un graffio, senza nulla, ben messo, dai. E io... questo qui non lo do a nessuno, perché ne ho dato troppo, me ne sono anche pentito alla fine. Ne ho dato uno che era bello, c'aveva anche la scheda, c'aveva. Era molto bello. Arrivato da continente, non preso da qua. Fatto da uno di quelli che fanno grandi modulatori. Ho capito. Poi vabbè, io l'ho avuto, è stato un mecco. Io ho pagato 150 euro, ho speso... quindi 15 centesimi di resistenze, l'ho sistemato, l'ho vinto 150 euro, la verità, quanto l'ho pagato io. che non mi sono pentito di averlo fatto, la verità. Mi piaceva, è venuto a casa, sono guardato, dicevo, sono innamorato del tuo, te lo voglio, detto, guarda, prendi, te l'ho detto, sì, me lo vuoi dare? Perché era il suo, non il mio, era il suo, l'aveva pagato lei. Dice, te l'hai dato, mi ha detto, con questo di lì mi sono preso l'altra roba, mi sono preso, capito? Ho questo permesso a Simona, perché l'aveva pagato lei. Quindi stava lavorando Simona? No, stava lavorando, però l'ha pagato lei, capito? Dai soldi suoi che avevano regalato a lei. I familiari, capito? Ho capito. Capagato. E adesso mangiamo sta? Sì, adesso sì. Vabbè, dai, piano aperto si tira su, dai. Per esempio che mangi, che bevi, perché mangi, quindi. Piano piano, un po' di movimento deve fare per la muscolatura, perché se no poi si attrofizza, casino, si sta per fare lei. E infatti già lo so, già gli ho detto stamattina. Adesso, vabbè, ci sono questi giorni a 38 gradi, lui siccome prende il soffiatore e roba del genere non riesce a respirare, quindi non la faccio uscire. Hai capito? Se al limite se la esce dopo le 8 e mezza, si è aperto. Se no, la roba in mattina, alle 7, fa la colazione, cosa ne so? Piano piano riesce a riprendere, dai. Buonasera, Buonasera, lo so. Allora, fa caldo? Cazzarola, a voglia. E oggi ha picchiato forte. Vabbè, io sono in sala con il condizionatore a spalla, perché sono fuori fa 45 gradi. Cazzo, c'è da crepare oggi. Vabbè, dice che è la giornata più calda che ha fatto. Sì, si conferma. Domani entro il maestrale. E va male, anche un po' di più ce lo farebbe male. Sento già la voce di Pompone che sta schiattando, quindi. A voglia. E Pompone ha detto che non sta bene, quindi è per quello forse. Tanto è. Sì, sono qua. Cazzo, stavo cercando escavatoristi a Ozzeri, ho visto ieri. Su Facebook. Certo, una vita di Ozzeri si hanno scavato visti per fare evidentemente la linea delle cose, per esempio, del telefono. Sì, non mi interessa, Antonio. Sono, grazie a Dio, sono strapieno, quindi non mi importa. Dobbiamo iniziare a Rosa, poi a Coso, come si chiama? A Santa Maria Coinas, si chiama Camesiria, Voleduria, ce n'è. Meglio così, è da ora, meglio così. Io mi ho telefonato da una vita che stiamo cercando delle persone per fare i vigilanti di notte per i vecchietti, per le cose mi risponde, ah no, ci deve mandare così come mi ha detto, dice, no così, non è che ci telefona così. Si vedrà, mi ha detto, bisogna vedere. Ho già capito, detto, questo lavoro è gratis, detto, non c'è bisogno di me lo dica, detto, faccio una cosa, se ne vai a fanculo lì e il lavoro detto, di volontariato. Guarda, ti do un nome, se ti interessa fare quel tipo di lavori, cerchi di Sergio Cappilli, dici che ti ho mandato io, a noi con io, sto cercando gente per fare questo tipo di lavoro qua. E lui, però mi ha detto, guarda, non conosci libertà, perché devi stare la notte, di giorno, insomma, è una vita un po' sacrificata. Io vorrei fare solamente la notte, no? Ma anche il giorno, 24 ore su 24, la verità, già ne basta una qui. Infatti loro cercano queste persone qua, e bisogna fare che, tra virgolette, si liberino un pochino anche loro, perché sono molto stressati sul fatto degli orari, capito? E quindi vediamo anche gente che possa fare orari notturni, diurni e pomeridiani e quant'altro. Vabbè, siamo ancora in fede, siamo lunedì, quindi non parliamo di lavoro, che a quanto pare oggi è il primo giorno, sto riposando. Ti sei messo a lavorare in campagna? Sì, già, un po' una volta. effettivamente con il caldo non è che l'abbiamo fatto, ne abbiamo fatto quasi 10 giorni, però credimi c'era da morire, quindi mi sono fermato per fare una cucina a casa e qua mi sono messo a imbiancare, e quindi tra una cosa e l'altra a spostare mobili e quant'altro, quindi puoi capire il casotto. Adesso niente, devo fermare, voglio andare da almeno 1 o 2 giorni al mare se riesco. E stacca la spina un po', se no che fine ti fai? Via. E la parte che la state facendo i canini? No, sto facendo una sorta di barbecue super attrezzato con basamenti, lavelli, luci interne, esterne e quant'altro, dai, un po' per fare una cosa bellina, anziché quello che c'era prima, non so se l'hai conosciuto tu, o se l'avevi visto o meno, era grande ma non era ben attrezzato, ecco. Quindi vorrà tutto rivestito, ci ho fatto solo il grezzo praticamente, con tanto di gettata per poterci camminare e quant'altro. Però ho dovuto staccare già, credimi, c'era troppo caldo. Beh, non si può lavorare, non si c'è troppo caldo, alla fine poi non ce la fai più. No, non ce l'ho presente il barbecue, ci sono stato da Atlanta, nel bunker, eccetera, ci sono stato 2 o 3 volte. Questo barbecue non me lo ricordo, come l'hai fatto esterno? Sì, ho ricavato il basamento di quello che c'era prima, l'ho prolungato circa 6 metri, non di più, quindi devo fare tutte le lambarà lì. L'attività deve continuare, ma un esercito. Ce l'aveva un bello un amico mio in campagna, ci aveva allora questo barbecue enorme, grande, con dei binari dove praticamente faceva scorrere la graticola e delle catene che lo tenevano, praticamente a fine corsa la graticola si bloccava dalle catene, che era veniva bloccata dalle catene, molto bello. E cavolo, l'avevamo cucinato per un bel di persone, cioè ma la graticola è nota. Sì, no, vabbè, ho voluto fare una cosa esagerata. Scusa un attimino. Non è una cosa esagerata su quel fatto lì, è una cosa un po' esagerata sul manco da lavoro più che altro, sai? E devi mettere a lavorare 2 cose, devi avere il lavello col piano d'appoggio e quant'altro. Quando devi cucinare non devi stare con questa tavolina portata in mano, cioè lì il basamento è vicino al barbecue così, poi gli ho fatto la zona piastra, insomma è una cosa bellissima, io e Luca te la stiamo facendo. Ehi, ho capito, e va bene, dai. Vabbè, quando ce n'è è meglio sempre fare le cose. Vabbè, mi piacciono le cose belle, dai. Magari ne faccio più le cose. Comunque, io glielo auguro. Va bene, c'era una piccola portantina che volevo entrare avanti. Niente, volevo solo dare un pochino di disturbo. Passate che Gianni è a 500 metri da me, quindi non credo che gli dai fastidio. Antonello, riprendi. Secondo me vado a eliminare qualche cibimi, Valteri. Lo metti in un contare, lo cucina e non si trova nulla. Sì, no, il primo che ci stava in orizzontale, era fatto per un vitello, che per mezzo vitello, ti puoi immaginare. Hai visto, c'avevo ragione io. Secondo me lo vuole provare con me, uno di questi giorni mi invita lì, capito, mi addormenta, mi mette dentro lo schiero e poi prende mi cucina. Ma tu ormai non sei più buono, vai sullo stantio adesso, quindi non sei più giovane, la carne è dura. Poi quando lo punge c'è la birra. Tu ti stai gonfiando, non va bene. Non. Ah, è quello che è vero, caspita, bisogna che mi sgonfi un pochettino, almeno per un paio di 2 o 3 mesi mi sgonfio e poi vado lì nella griglia. Allora, oggi nessuno è andato al mare di voi. No. no, no, oh, sì, non ci sono andato. No, oggi avevo una visita stamattina, quindi ho aspettato 2 ore per visitare, prima già l'ho fatto. Non potevo andare al mare oggi, ma ci andrò nei prossimi giorni perché sta facendo troppo caldo. Ma oggi guarda, non ti credere che si stia bene fuori dell'acqua, eh. Magari si sta bene in acqua, ma fuori proprio a pigliare soli, no? Guarda, io ho visto un video che mi ha mandato mia sorella, che è lì a questa zona, che io non sto bene neanche nell'acqua, perché c'è il mare, è un po' una risacca lì in riva, quindi insomma un po' così, non è bello bello, eh. Enrico, avanti Giuseppe, avanti, buonasera. Buonasera a tutti, belli brutti, mannaggia, io di rientro. Kappa Giuseppe, dovevi di bello. Ma guarda, ti dico la verità, questa volta ho puntato sud Sardegna, che siamo fatti 12-13 giorni con oggi, eravamo giù a Villa Sinius, e ti dico già va bene. Aspetta, Gianni, sono iniziato a parlare. Ciao Giuseppe, almeno per salutarlo, poi potete continuare la vostra questione. Buonasera a te, Tino, ben sentito. Bene, bene, vabbè, qua al nord, diciamo, tra virgolette, era un pochino imburrascato il mare. Gaffa, gaffa, sì, ma già va bene, guarda, noi adesso siamo rientrati e niente, mi faccio gli ultimi giorni di ferie qui, scenderò in Tino, più che altro Platamona, che non ha Giubiogana di guidare. Abbiamo un mare splendido, a 2 passi, cazzo, ce lo dobbiamo godere. Ehi, di mattina sì, no? Poi di sera diventa giallogno. Ehi, sono stato io in quella zona lì, una settimana ci sono stato. Bello. C'erano tutti gli ombrelloni infatti con le palme, non so se sia ancora così. Che sono dei posti? Noi nell'area camper dove eravamo noi, c'è la spiaggia del Riso, è bellissima. Ma poi il mare è favoloso in quella zona, belle rocce arrotondate, non ti pugine niente, bei posti. Sì, infatti in albergo ci avevano detto, come mai siete sardi della zona di Sassari dove c'è Alghero, Stintino, che bello, venite qua. Perché questa zona non l'avevamo vista, come non abbiamo visto in Morese ancora, la zona di Nuoro. Ancora. Sono a Stapoli, una settimana ci sono stati in albergo. Già, stessa domanda che hanno fatto a me, però io ho risposto diversamente. Mi hanno detto, con tutti i posti belli che avete lì della Sardegna, ho detto, ma qua io ti dico, questa qui era la tipa della Rec Station lì al camping. Gli ho detto, come noi veniamo qui da voi, da noi è pieno zeppo della vostra gente di Cagliari, di Pula, di Santa Margherita di Pula, ne ho provato di tutto e di più. Ciao Giuseppe. Avanti. Ah, tu sei andato nell'area camper? Sì, ho organizzato lì, così almeno eravamo un attimino più tranquilli. Il camper molto lontano è dalla spiaggia, no? Come? Non ti ho copiato bene. Ho detto, il camper è molto lontano dalla spiaggia oppure siete vicino? No, è vicino, fai una passeggiata e sei già in spiaggia. Bene, buona sapersi, andrò a visitarla anche io qualche volta. Ma sai perché ti dico questo, sì? Dimmi. Allora, tu sei camperista, no? Sì, diciamo sì e no. Nicolino lo conoscerai? A voglia, a me hanno provato l'otto. Oh, anch'io ho passato diverse estate lì da Nicolino, però la cosa che mi fa più rabbia, più fastidio, è che tutti a Nicolino lo criticano, da noi sono tutti tanti chivi, non si muovono da lì. Sai cos'è? Allora io parlo per me, poi faccio riprendere a Gianni. Allora io parlo per me, nel senso che Nicolino è un punto d'appoggio secondo me per quanto riguarda che ne so, starci 2-3 giorni perché ti fa una rossita, però l'accessibilità della discesa al mare è un po' anche difficoltosa, più che altro è campagna, ecco, non è proprio mare. Io ho conosciuto i primi periodi di mare vero e proprio con la ruota del camper lì a Pazzona e Timanno, quando parcheggiavo fronte mare a 20 metri dal chiosco. Ecco, quello per me è essere in spiaggia col mezzo, capito? Mentre invece il contrario di Nicolino è che tu parcheggi lì e vabbè, ci sono tutte le comodità, nel senso che tra virgolette tutte, se ti accontenti, perché è un supermercato a due passi, hai il mare che devi fare la passeggiata, poi è dura anche a salire, però insomma non è il mare. Ho trovato una tratta un po' così, a volte una tratta un po' burrascosa, ecco, al contrario di quello che ho detto prima, ecco. Vai, ciao, faccia anche Alice. Oh, vabbè, non riprendo. Sì, vabbè, fatto bene, Giuseppe, almeno è staccato un po', là. Sì, ma io ho detto la mia come sempre, chi vuole seguire è benvenuto, ma io non posso stare ogni anno da Nicolino. Cazzo, un camper, cazzo, che ci vale tanto oro, quanto pesa, cazzo, me ne tocchi chi mi rampato 15 giorni da Nicolino, ma non ma lasciamo perdere, dai. Allora torni a me, Giuseppe, giusto? Come ti? Ho detto, allora torni a me. Sì, ma io torno a te perfettamente, perché io ho i camper per girare, ma è inutile che io esca con gente, no, cazzo, chi te pinginoso, cazzo, le docce di Nicolino sono così, chi te cura, e da voi, cazzo, dove sta Nicolino? No, andate voi. vabbè. Ho già capito l'antifora, bene. Non so, Alessio, sei entrato? No, non c'è. Quindi siete andati soli, non eravate in carovana? No, già, assolutamente. Soli, ma ti dico che abbiamo fatto amicizia con di tutto e di più. Poi il giorno di Ferragosto, guarda, è stato stupendo. Sì, perché poi in effetti quando fai queste cose, io ho degli amici che ce l'avevano in camper, poi l'hanno dovuto vedere quando ci hanno comprato la casa e lo stanno sempre piangendo. E mi ha detto che facevano delle grosse tavolate, ognuno metteva una cosa, tutti amici, facevano giochi, penitenti, di tutto e di più, dice che si divertivano da morire. Oh, guarda, io ti dico una cosa, non c'è una persona che all'ingresso, quando abbiamo fatto il check-in, non abbia fatto un test, per essere tutti quanti tranquilli. Sì, e beh, certo, adesso è obbligatorio tutte le parti. Stamattina me l'hanno fatta anche all'Ipsa, figurati, me l'hanno fatta due volte. E vabbè, se lo fanno perché siamo a rischio, c'è poco da fare, molta gente non ha compreso un cavolo, stanno ricominciando a fare cose che non devono fare. Intanto al milionaire contagiati anche i dipendenti. Da voi insomma dove c'è movida cosa non ne usano, perché io più volte sono sceso a Plattamona e sono sceso in uno di quei bar che fanno musica eccetera eccetera. Sono andato a vedere il tributo dei Queen, il tributo cosa c'era di cosa, come si chiama? Di Gianni Nannini eccetera eccetera, e nessuno metteva la mascherina, erano tutti al posto della mascherina, c'era la bottiglia della birra oppure il cocktail in bocca. Ma ecco, il test cosa ti hanno fatto per fare questo test? La febbre ti hanno giurato, ovvero la misura della temperatura o cosa? Sì, c'è la guardia giurata all'entrata, ti misura la temperatura, ti fa pulire i piedi su un tappeto, te li fa pulire per bere un bel po', ti fa stare pure del piedi. E poi ti fanno mettere quel gel per le mani. Ecco cosa fanno, non lo fanno tampone. Quello volevo, perché così lo fanno anche, sono andato a Decathlon stamattina, ogni volta che vado ci fanno questa cosa qua, ma è giusto che sia così, dai. Ma se tu sei una persona che sei solo di quelli che contagiano e basta, no, così non te lo trovano, perché temperatura non te ne sale, capito? È quello che c'è. Non è che sia efficace al 100%, un 50% li posso dare come sicurezza. Scusate un secondo, riprendo io. Vai Giuseppe, vai. Allora Gianni, io ti dico una cosa, sono perfettamente d'accordo con te, però io il 50% non glielo do di sicurezza, gli do 0 staccato e ti spiego anche il perché. Allora, se io adesso ho la febbre a 38, no? Devo uscire di casa, devo andare da Decathlon per fare delle commissioni, prendo una tachipirina, dai, adesso dammi tu la risposta. Te la passa, glielo so. Io per dire sono andato a accompagnare mio nipote che era un istituto e quando sono, allora mi hanno fatto aspettare fuori, c'erano due o tre persone prima di me, aspettando fuori, si è aspettato lì al sole. Entro dentro, la temperatura, mi misurano, lì c'è la temperatura alta, 37,30, sì, ma ero al sole però. Misuratemela dopo che sto un po' all'ombra, lasciatemi da una parte. Mi hanno fatto andare in fondo in un corridoio, mi hanno fatto sedere in una poltrona che c'era lì. Poi me l'hanno misurata dopo una ventina di minuti, che c'è una rottura di palle perché perde un bel tempo. E ce l'aveva 36,2, l'ho visto, era il sole, sì, allora adesso che lo sappiamo, dice che fa così, non facciamo mettere la gente al sole perché sennò ci frega. Poi lascia perdere, guarda, è proprio per il coso della temperatura, non sono mai stato d'accordo. Sì, perché se sei asintomatico, quella è la ragione, non è hai temperatura, però nello stesso tempo contare. Sai cosa devono fare? Si devono fare come fanno i diabetici, si pungono un pochino il dito e c'è il coso istantaneo. Sì, infatti. Vabbè, comunque, io mi auguro solo una cosa, che non richiudano i negozi, perché se no finiamo male davvero, perché come sta andando la situazione non mi piace, ma è la zona della Maddalena, quelle zone lì, al milionaire, eccetera, eccetera, ci sono stati un po' di casi, e quindi adesso non si sa, perché questi qui erano dei romani, sono ritornati a Roma e praticamente hanno trovato il Covid-19. Adesso che se l'abbiano preso qua da Sardio, che ce l'avessero loro e l'hanno portato qua a raggiungere tutta Giaduasi, non lo so. Già può essere. Comunque è giusto anche quello che stai dicendo tu, per carità, però è una spesa che purtroppo non vogliono affrontare, quindi non lo faranno mai. Lo so, guarda, a noi come siamo entrati per fare il check-in, mi hanno igienizzato anche le gomme del camper. Ma è bello farlo perché sono sicuri loro, sei sicuro anche tu. Certo, infatti mi hanno detto non sei arrivato questo, no, tutto partato con mascherina, mi ha detto non si offende se aveva questo atomizzatore, no, assolutamente no, fai il tuo dovere, e tranquillo lui e tranquilli noi, perché ci avevano passato 13 giorni, guarda, in assoluta tranquillità. Sì, certamente che sì. Cambiando discorso, Giuseppe, voi nelle guardie d'ufficio avete degli agenti in borghese che girano con un Alfa Romeo? Perché sono stato fermato a queste guardie d'ufficio, che hanno preso per poco, se le mangio. Adesso sono venute tutti e tre di colpo verso di me e il cane ha visto che stavano venendo verso di me, hanno bloccato la macchina in mezzo strada, proprio via Morris, dove abito io. Sono venuti tutti e tre verso di me e mi hanno presentato la testa, guardi il zuffile, e poi si dice questo cane è nervoso, no, non è nervoso, vi siete posti male voi, ho detto, se voi andate di colpo così il cane difende il padrone, è normale. Comunque non li ha fatti avvicinare con la macchinetta, me l'ho dovuta passare io. Ho capito, e che associazione di grazia? Non lo so, lo sto chiedendo a te, erano 164, in borghese erano, tutti e tre. E sono usciti con questa valigetta, mi pagliano in Borboni all'inizio, invece mi ha detto guardi tu, mi ha chiesto se avevo le bustine, ha visto il microchip, mi ha chiesto nome e cognome, se il cane era il mio, dove abitavo, eccetera, eccetera. E poi ci sono andati, non mi hanno fatto remutare nulla, però intanto si sono posti male perché il cane ti vede tre persone che ti vengono tutte e tre verso di te, il cane stava facendo la pipì, quindi cosa è successo? Come si dice se la vista lì? Ma dimmi una cosa, per caso era blu? No, non era blu, mi pare che fosse fosse grigia. Vabbè, perché ce ne sono macchine di proprietà quelle, una grigia e una blu. Infatti sicuramente hanno già fatto macchine loro, ma ha detto che stanno, che loro sono in borghese perché fanno anche altri tipi di servizi, quindi non si devono fare riconoscere, che per quello hanno usato la macchina borghese. Vabbè, comunque in ogni caso mi ha detto la museruola, poi se la porti appresso sempre, la metta nel posto, e poi si rifaccio fare un giretto alla museruola, e cosa la porta a fare? Il cane, una volta che c'era la museruola, la musica di un pitbull, non si è potuto manco girare, è andata a girarsi, faceva la museruola, l'ha presa alla coscia, poi l'ha preso alla gola, per poco non me l'ha amata. Se non fosse stata una ragazza che la sua volta c'ha un pitbull, ma quello non lo conosceva, gli ha aperto la bocca, ce l'ha fatta aprire la bocca e a liberare a peso, ma gli ha fatto un bel danno, gli hanno messo i punti. Scusate un attimino, dai, che è arrivata gente a casa, va a mollare, nel caso ci si risente più tardi, dai. Riprendi già, ciao a tutti. Ciao Tino, ciao, ci sentiamo, dai, buona continuazione di serata, avanti. Ok, ciao T, ci sentiamo, dai, ciao ciao, buona serata. Ciao, ciao a tutti, ciao. Oh Gianni, ma uno di questi cos'era, Bassottino e Magrolino? Ma è con gli occhiali, uno con gli occhiali, un altro Bassottino, quello che guidava un po' tarchiato, e un altro Magrolino, sì. Ho capito chi sono, poi già ci sentiamo per telefono e ti dico cosa devi fare la prossima volta. Comunque io gli ho detto che la museruola non la stavo mettendo perché quando gliel'ho messa poi l'hanno morsicato, non si è potuto dire, no, la faccio una cosa, se la metto nel polso almeno a tenerla presa, e che cosa la fai quando la tiene presa, non è che cambia nulla. Oh Gianni, ma lasciali perdere da bravo, dai, che non sanno manco cosa stanno dicendo. E mi ha detto, se la dico, la fa un giro la museruola. Il cane si è nervosito perché li ha visti tutti e tre che sono venuti di colpo. Cazzo, hanno messo la macchina a mezzo strada, l'hanno bloccata a mezzo strada, senza parcheggiare, senza nulla, così, capito? Se ne sono usciti tutti e tre. Cosa vuol dire? Ho detto buongiorno da lontano, ho detto ragazzo, forse mi stanno chiedendo qualche informazione, e invece no, sono venuti tutti e tre verso di noi, il cane sta facendo pipì, come si è girato, l'ha visti venendo contro, è normale che li ha rinviati. È strano però che non ti abbiano detto, sì, buongiorno, guardi ecco gonfile di tot di dell'associazione. No, mi ha detto guardi zoofile comunali. Comunali, dico io. Esistono, io so che a parte il giuramento il comune, ma che siano comunali non lo so, che dipendono dal comune. Poi, tu fai una cosa, la prossima volta farti vedere bene il tesserino e non sbagli. Infatti me l'ha presentato così, l'ha messo subito dentro, capito? Me l'ha presentato così come fa la polizia quando ti fermano. E vabbè, comunque, io non c'ho nulla da temere perché il cane c'ha microchip, c'ha tutti i vaccini, tutto quanto, anzi gli ho fatto quello che vale per 2 anni, figurati, se io c'ho cosa da temere. È che il mio cane è fatto così, non accetta molto le carezze degli sconosciuti, ci va a pelle, ci sono persone che magari ci fa stesso lui, lo scodinzola, la puoi anche lo puoi accarezzare tranquilla, ci sono persone che come va a toccare lui. Sì, ma è normale, il cane va istinto ed è normale, a parte il fatto che loro manco si possono permettere di toccarlo il cane. No, non l'hanno toccato, gli stavano avvicinando la macchinetta e il cane l'ha ringhiato, capito? No, no, la dia a me la macchinetta, gliela passo io. E l'ho passata, come l'ho passata, allora hanno scritto un numero, cosa vi appare, non lo so, se c'ha un numero di codice, e niente. E poi mi hanno chiesto nome, cognome, dove abitavo, mi hanno detto se avevo le buste per raccogliere i bisogni, io ho detto le vuol vedere, le faccio vedere, ce l'ha preso, ce l'ha attaccata alla pettorina, c'è una specie di borsettina con le cose, con le bustine, no? L'ha fatta vedere. Dice, però la prossima volta si ricordi la museruola, sì sì va bene, l'ho portata per 2 giorni per la giugna del gatto. Ma sì, il cane era il guinzaglio. Sì sì, il cane io non lo lascio mai senza guinzaglio, il guinzaglio anche corpo. E allora non c'è bisogno. A me mi hanno detto che dopo i 20 kg, il mio pesa sui 18 kg, dopo i 20 kg dice che è obbligatoria. va bene, ma dipende anche dal tipo dei cani, dipende se il cane è di coso mortace, di indole mortace, dipende da tante cose, dalla stazza del cane. E certo, colui che è il pitbull lo lasciamo avvicinare a casa senza guizzare, senza museruola, gli ho fatto le bucce anche da casa, ho detto ancora non hai capito quello che avevo scicato a taccia. Non ho ancora capito, cosa ti ho chiamato, guardi tutti. No, no, signor già, ce l'ho in mano il guinzaglio. Sì, ce l'ho in mano, ma non cambia nulla se ce l'ho in mano. E lo devi attaccare il guinzaglio, non lo devi lasciare quel cane libero, che è pericoloso. Beh, certo, è come la stessa cosa che tu hai uno Yorkshire. O un bassotto ripone la museruola. Sì, ma... sai chi li tiene questi cani, no? Ti puoi immaginare. Ti puoi immaginare chi li tiene. Sono tutti spacciatori, tutti, e infatti ho detto andate su a controllare i cani che sono senza microchip, senza, e anche senza coso, senza vaccini, perché non controllate qui, non li temete, gli ho detto. E quindi stavano facendo tanti edacci. Ehi, ma infatti, beh, io sono in regola, quindi a me non mi fanno né caldo né freddo, non c'è problema. Io anche l'altro giorno si sono fermate, come si chiamano, i baraccini. Stavo parlando con una signora, tu lo sai benissimo che dalle 6 alle 6 di mattina aveva messo la mascherina, no, io c'avevo la mascherina tranquilla, e stavano salendo su via Florina, si baraccini, come hanno visto una buttare la bombetta, hanno fatto un retrofront, praticamente hanno fermato questa qua, e questa qua era di Ottava, stava buttando la bombetta in via Florina, in via Bonova. E niente, non gli hanno fatto nulla e cosa, no, poi hanno visto, a me mi fa, questo cane mi crucifi ce l'ha, questo sì che ce l'ha. E dice, va bene, non c'è problema. E poi come mai siete senza la mascherina? È fatto bene, la legge è uguale per tutti. E loro sai cosa mi hanno risposto? Che la mascherina si mette solo nei posti dove c'è assembramento. No, gli ho detto, questa è la legge che vi state facendo voi, perché al televisore l'ho detto chiaro e tondo, dalle 6 di sera alle 6 di mattina va messa la mascherina, come si esce da casa? Si va già con la mascherina giù, io lo faccio ogni giorno, ma vedo che c'è molta gente che se ne frega le scatole, Giuseppe. Io il primo giorno che hanno fatto questa legge qua, me l'ho messa e non ho visto una persona con la mascherina, ci credi? Sembrava l'unico imbecille che ci ha messo la mascherina. Eia, ma anch'io ne ho visto tantissimi, proprio con una tranquillità. Ma non ho capito ancora la gravità del problema a certe persone, secondo me, o sono talmente ignoranti, o proprio non ci passano sopra, non lo so, quando mai uno non capisce che cosa sta andando incontro, cazzo, può andare incontro alla morte tranquillamente, perché oggi stai bene, domani, cazzo, ti può venire il coronavirus e ci rimani, ci è rimasto un po' di gente con quel cavolo di malattia. Sì, ma sono perfettamente d'accordo, quella è la classica gente che gli piace il brivido, gli piace il rischio, gli piace sfidarla la sorte, hai capito? È gente menefreghista che però non si preoccupa manco degli altri, perché sì che non fa per te, non ce ne frega nulla, ma il fatto che così metti a rischio anche gli altri. Infatti, è per questo che siamo in questa situazione. Sì, ma infatti adesso, io sono sicuro adesso che di nuovo chiuderanno di nuovo tutto, vedrai, perché la cosa si sta allargando come la macchia del lupo. Ma speriamo che la gente metta a testa, però a quanto pare quei 2 mesi non sono bastati per riflettere, vedere un pochino che cosa vuol fare uno della propria vita. Sì, poi manco chi gestisce le cose non sanno che pesce prende, diciamo se lo chiaretto. Non sa, ne capisci un video, Giuseppe, uno dice una cosa, uno dice l'altra, uno vuole aprire le spore, l'altro non è d'accordo, insomma, anche noi siamo un pochettino confusi con queste idee che ci hanno, dovrebbero essere tutti quanti d'accordo e fare le cose tutte in linea, invece uno dice una cosa, uno dice l'altra e confonde anche le persone, capito? Gianni, la popolazione è disorientata, la popolazione non sa più da che parte, la popolazione non sa più a chi credere. Perché ci sono, adesso anche il fatto del coronavirus, dicono che praticamente questo medico che c'era su internet, non so se l'hai visto, il ginecologo ha parlato, ha detto che sì, che sarò vivo, vi dirò le cose come sono. Praticamente questo virus, il coronavirus, è nei vaccini anti-influenzali. Praticamente chi ha fatto i vaccini anti-influenzali, tanto è vero che sono tutti gli anziani che sono venuti perché hanno fatto quei vaccini, ha detto che praticamente si trova lì, loro non lo diranno mai, però si trova in mezzo ai vaccini anti-influenzali. C'è chi dice che non è vero, c'è chi dice che è vero, c'è chi dice che si fa fare i vaccini se escono, gli altri dicono di no, che hanno paura che ci sia veramente il coronavirus. E una donna anziana, l'altro giorno parlando e te, hanno detto anche questo, io mi hanno detto, guarda che io sono anni che faccio il vaccino anti-influenzale, pure il coronavirus non me ne è mai venuto. Ma se l'ha fatta anche mia suocera che ha 80 anni, il vaccino anti-influenzale, e grazie a Dio non ha niente. E sono quelle cose che mettono su internet, quei fake che creano solo confusione, perché c'è gente cattiva in giro che sta predicando in lungo e in largo e maledicendo i vaccini, mi hai capito? Sì, Giuseppe, ma lui è uscito col suo volto e ha fatto il filmato sul suo viso per mentre parlava, quindi non è che fosse una cosa nascosta, che fosse un figlio, magari la pensa davvero così lui, è convinto, ha detto che sì che sarà morto, lo dirà sempre, perché sono cose che a noi ci nascondono, non potremo mai sapere se non sia in mezzo alla medicina, in mezzo a queste cose. Che sono cose che a noi ci nascondono, e che lui ha detto che questi bastardi di medici, che sono praticamente tutte persone che ci guadagnano, questo e quell'altro, anche se sono miei colleghi, sono dei disgraziati, sono miserabili, pensano solo al business, eccetera, eccetera, e non diranno mai quelle cose che sono vere. Sì, mi pare che quel video ce l'ho, lui, e mi pare che sia con un camice bianco, addirittura ha dichiarato anche che questo virus è stato messo in circolazione per ristabilizzare la popolazione mondiale. Sì, ma bisogna vedere se sono idee sue oppure se verità, chi lo sa. Non si sa dove ci possiamo affidare, c'è chi dice che è scappato dai laboratori, c'è chi dice che sono gli animali che lo contagiano, hanno detto mille di cose perché non sanno dove attaccarsi, non sanno che cosa pensare, capito? È come quando c'era il tumore, quando c'era il cancro, le cose dicevano dipendeva da una cosa, che dipendeva dall'altra, che quello era, che quel cibo era cancerogeno, l'abbiamo sempre mangiato, e quello fa male, il zucchero fa male, la farina fa male, tutte queste cose qua, perché non sanno dove appigliarsi, quindi cercano di pensare quello che può essere, però sono sempre supposizioni. Ma io invece penso una cosa, che qui internet lo sta amplificando in una maniera artificiale questa storia qua, ma io penso una cosa, che noi arriveremo, se continua a ribaltare questa cosa così su internet, ad arrivare tra non molto, tra qualche anno, a essere tutti contro tutti, perché c'è tanta, si sta creando tanta di quella cattiveria in giro che noi non ne abbiamo la più pallida idea. Vabbè, anche quando non c'era internet, Giuseppe, la cattività delle persone c'era, come c'erano quelle buone c'erano quelle cattive, quindi c'è tuttora, c'è su internet, c'è da tutte le parti, quindi non è solo internet, Giuseppe, internet è una cosa magari in più, dove fa incontrare un social, dove si incontrano molte persone, spongono le loro idee, eccetera, eccetera, però